parte dai. No, ero qui in Campania, mi stavo sistemando un po' il cavallo e così ne ho approfittato che ho cambiato un po' il cavo qui dell'antenna che era tutto mal combinato. Ascolta, mi stai ascoltando? Sì, 9:30, cazzo, siamo vicini, la radio Super 5. Ti buono così come la vuoi? Va bene. Dai, ho cambiato il cavo perché siccome era quel cavo che danno in dotazione, quello proprio che fa ridere Giovanni, considera che sono con l'antennino, quindi già va più che bene. E a voi è come? E come? Certo che il cavo bisogna... Ma è il secondo tipo del cavo però che metto, no, però ci sono anche dei cavi buoni anche quando le danno queste antenne, capito? Non tutti, però la maggior parte sono cavi buoni, perché io l'avevo sulla barra un saccaccio di anni e mi andava bene, ed è sempre l'originale quello che mi hanno mandato insieme all'antenna. Magari dopo ci saranno anche quei cavi bastardi che non valgono la cicca, capito? Forse ti è capitato anche quel cavo a te. Capo, no, ma il cavo, diciamo, adesso l'antenna è il Turbo 2001, però la piccola, la mini, il cavo era quello proprio andante, e siccome mi ha fatto arrivare del cavo buono, quella doppia calza, schermato, insomma, un cavo abbastanza all'avanguardia. E quindi abbiamo rifatto tutto. Ok. Beh, se ci vuole bisogna metterci, se hai fatto bene, hai cambiato. Ma io c'ero ieri in campagna, ho sceso così a guardare, però non ti dico niente, le zanzare che c'erano, le sono salito con tutto, guarda, mi sono messo il giubbotto proprio per evitare che mi mangiassero le braccia, capito? Perché l'altro giorno mi hanno tutto punto alle braccia. Ieri mi sono messo il giubbotto e mi hanno beccato in faccia, avevo 6 o 5 bolle che non ti dico niente in faccia, sotto l'orecchio, proprio sulle guance, è una cosa pazzesca le zanzare che ci sono quest'anno, io non ho visto mai in vita mia, le zanzare di questo tipo, mi hanno frantumato e io adesso ho paura anche di scendere in campagna, ci credi? Ho capito. No, ma guarda, come zanzare da noi veramente non ne ho visto. Considera che io ero due giorni lì in campagna, che insomma, abbiamo un piccolo frontetto, siamo messi lì a pulire, a fare, a dare un po' di potatura perché era, diciamo, una foresta. Però ti posso dire che zanzare niente, ma aspetta un attimino, nel punto dove sei tu la campagna, c'è mica qualche vascone, qualcosa? Io sono in una vallata, sono in una vallata per cui è tutto frutteto lì, però ripeto, se passi dove c'erano gli agrumi è peggio ancora, non ti dico niente, poi se prendi la pompa per innaffiare non ti dico niente, si attaccano, te lo sto dicendo, mi hanno frantumato la faccia ieri. Sì, e per cui umidità ce n'è, forse anche per quello, e tramite anche il caldo, perché se non piove, quelli sono sempre allerta a mala sorte, mentre invece cambiando il tempo, al fresco allora o muoiono o si nascondono, capito? Però adesso a me è pieno, ti dico che è pieno. Ho paura di riscenderci proprio per quel motivo, perché c'ho un saccaggio di cose da fare, però non ci scendo, per carità, mamma mia, te lo sto dicendo. C'avevo la guancia che sembrava un coso, un bambolotto ieri. Addirittura, ragazzi. Se c'è umidità, allora loro corrono l'umidità. Poi con questo caldo, lì ci vogliono loro. Ho capito, dai. Va bene, evidentemente diciamo sia a sangue, almeno così dico, che la zanzara va a sangue. Ma è appresso che con particolare, che a me le zanzare anni fa non mi facevano niente a me. Nulla, tutti li sentivo lamentandosi e tutti morsicati da questo esaltare, a me non mi faceva niente, però già è un paio d'anni che mi sta facendo forse il sangue, che adesso abbia cambiato il sangue, si chiama tutto a me, e qualcuna capita anche in casa, ma io ho tutte le zanzariere in tutti i posti, però quando apri magari il portone delle scale qualcuna sale e qualcuna notte c'è, beh, a me si attaccano, mi pungono, a mia moglie no, e a pensare io mi copro proprio per quel motivo con le sole la notte lì magari sopra il letto e non gli fanno niente, e forse come mi hai detto tu è a sangue allora. Almeno così dicono Giovanni, così dicono, dice che tira sangue, poi magari potrebbe essere anche qualche stronzata, non lo so, e vabbè, comunque, se non cambia un po' il tempo, che adesso magari piove, rinfresca, loro con questo periodo qua dove c'è umidità, poi è normale che sono all'avanguardia, e va bene, dai, ok, Giovanni, adesso sono ottava, com'è? Ti dico che la radio è sempre buona, il segnale ha cambiato poco e niente, una tacchetta ha cambiato, però la radio è sempre buona, ottima, veramente ottima, ecco. Ehi, capa, dai, ok, aspetta che ho sentito qualcuno che ha detto sotto casa, sì, buongiorno. Ah, non si è calmati, buongiorno, ciao Giovanni. No, non sono a Carbonazzi, in questo momento sono rifornitore e sono ottava. Senta, anche ottava arrivo. Arrivi, insomma, così. Ok, buongiorno, buona domenica anche a te. E allora? Niente, vi, a fare una battutina a Sandro, sto facendo cosa, vai. Divertitevela, ciao Sandro, ciao Giovanni, rimango in Quirix. D'accordo, ci sentiamo, dai, buon proseguimento, ci sentiamo, vai Sandro. Ok, dai, niente, qua, dai, ho cambiato il capo anche qua al furgone, capito, quel capo là che... schermato quel capo buono e mi sono accorto che anche in ricezione e così via va bene, considera che sono sempre con l'antennino, lì da te qua com'è? Bene, sta andando perfettamente bene, non ci sono problemi. Ok, dai, va bene, dai, buon quelli che si ascolto alle prossimine. Dove sei arrivato, sa? Allora, guarda, ho passato quel fosso dopo Ottava, adesso sono quasi a quella rotatoria, a quell'incrocio, bancali e così via. Ok, 9:20, la radio è super, buonissima, stai andando veramente bene, vai. Ok, dai, vuol dire che già, anche il capo già fa. Anche la ricezione sarà più pulita, anche se è scalmato quel capo va benissimo sia in ricezione che in trasmissione. Ok, va bene, sa, dai, buon proseguimento e buona domenica a te in famiglia, ci sentiamo, chi va chi, vai. Ok, ciao, sa. Ok, Giovanni, dai, buon proseguo di giornata, buon tutto, e alle prossimine. Ok, ciao, che è quello che l'ascolto, ciao.